Attenzione 10, c'è qualcuno? Pronto, pronto, qualcuno ci dovrebbe essere, buonasera. Buonasera, con chi ho l'onore di parlare? Buonasera, allora lei ha l'onore di parlare con Mario di Porto Torre. Buonasera. Dottor Blume, se non è andato, giusto? Cappa Mario, buonasera, dai, non ti avevo riconosciuto. E allora, tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Buonasera, dottor Blume. Io ho iniziato a riconoscerti adesso, perché comunque, vabbè, motivazioni particolari, eccetera. Bene, bene, tutto ok, a parte meglio, insomma, giornata veramente pazzesca, mamma mia. Le sta scendendo l'aria. Sono qua, sono sempre qua. Buonasera a tutti quanti al canale 10. Mio genio, il genio, via Beggi. Buonasera, buonasera. Ciao genio, compagnia di Mario da Porto Torres. Sono avanti Mario per Perugino. Ah, ok, scusa, capisci, ci siamo parlati sopra. E stavo salutando il genio, io. Ciao genio, buonasera, spero che tu mi sei sentito prima. Ok, insomma. E beh, vento ce n'è lì da vostre parti? Qua sì, qua a Sassari sì, Eugenio dalle tue parti, quindi è la stessa cosa. Qui a Sassari sì, c'è vento, ha grandinato, stanotte è tuonato, guarda, una cosa mi stava facendo paura, infatti mi sono alzato a staccare tutto l'impianto qua, ho staccato sia l'antenna che la luce. Ah, allora siamo a posto, insomma sì, qua avevano misurato 141 kpm orari, cosa mi racconti? Com'è andata? Com'è andata? Tutto bene, tutto bene. Passato? Già lo credo, le 10:30 di stamattina. No, ma dico, sei passato? Sì. Certo, sono io che avevo dubbi, dicono. Sì, sì, è andato tutto bene, tutto a posto. Mi sono stato secondo me in coato, non c'è problema perché comunque è una commissione veramente spettacolare, tra l'altro. E quindi, insomma, siamo, vabbè, io devo essere onesto, non mi sentivo pronto, non mi sentivo preparato, però è passata, sì, anche questa è andata. Allora auguri, auguri Mario, auguri. Mario, ma cosa sei diventato? Radio Mattone? Diciamolo, va, possiamo dirlo adesso, sì, dai. Sono diventato Radio Mattone anch'io, vabbè. Mi sono buttato doppio rumo, ho fatto un po' un corsettino con i ragazzi, però onestamente non mi sentivo pronto, perché le cose da studiare erano tante, ci sono tante cose, ma evidentemente mi è andata grassa, perché comunque mi è capitata una bella bustina, una delle domandine, insomma, che non erano difficilissime, quindi insomma siamo riusciti a scavalcare anche questa. Tieni presente, le tasse, 62 anni, non è che dico concentrare, capito, fare chissà che cosa, però insomma, è un qualcosa in più, ecco, però ripeto, mia moglie rimane sempre la 27, non c'è niente da fare. Sono nato con quella e con quella io continuerò comunque anche a mantenere un ottimo rapporto, capito? Vai. Auguri allora, di Natalino nulla si sa. Natalino purtroppo penso che l'abbiamo castagnato. Guarda, io volevo chiamarlo prima, solo che non lo so, guarda, io posso capire, non lo conosco bene Natalino, però posso capire che magari potrei essere anche un po' incazzato, quindi magari lo chiamo domani, vediamo un attimino. Né lui e neanche Salvatore, sempre. Cappa, mi dispiace, perché Natalino era pronto, stava sempre studiando, poveraccio. Oh, ma Natalino ne sapeva anche, lui sapeva più di me, Natalino era più preparato di me anche, ma molto, molto, molto. Però secondo me, questa cosa, le domande, devi avere fortuna, perché se ti capitano le domande è facili le risposte, se ti capitano quelle difficili è un po' problematica la cosa, hai capito? Però in sostanza, ecco, c'è un'altra possibilità d'esame, eventualmente se loro volessero magari lo possono ripetere l'esame, perché ci sono due possibilità, ci sono. E quindi insomma, infatti io mi ero già preparato e dopo farò anche un altro giro, quindi figurati. E vedi che già qualche stato mi ha aiutato, guarda. Ma io sì. Vabbè, dai, ci riproverò la prossima volta, no? Non è successo niente. Lo so, ma poverino, stava studiando, si meritava di essere promosso. stava studiando un bel, addirittura a volte non entrava per studiare. E vabbè, Mario, dai, sei stato fortunato, oramai le biliarda, la patente, a futti di... Sì, certo, però sai, quando non hai tutti quei meriti che dovresti avere, sono un po' di mani così, hai capito? Però vabbè, io ho le domande, diciamo, di come si dice, di pragmatica, quelle comunque che spesso lo sufficiente di passare, io ho risposto, quindi... Vabbè, è andata via, anche per sogno, guarda, ma non ci sto minimamente pensando, io sono per la pirateria più totale, che mi diverto di più, io sono fuori legge in tutto e per tutto, anche al lavoro, sono fuori legge, non mi piace la legalità. Non ci credo neanche, guarda, ma metà di quello che hai detto, vai, lo più brutto. dai. È un trasgressore. No, vabbè, anche a me non interessa, la verità. Magari, vedi, per avere qualche radio amatoriale, per fare ascolto, quello, per quello mi farebbe comodo, ma non mi interessa, perché tanto sono SWR, posso sempre ascoltare dal ricevitore e basta. Match. E sono ancora tuttora addirittura io la patente nautica, ora vediamo un po' se prendo quella entro le 12 o quella senza limiti, quella è un problema, lo vedi, che mi serve per lavoro, un po' ci serviva per lavoro, quella lì ci vogliamo far prendere le patente nautiche, qualche rottura di palle. Perché oggi che tipo di lavoro dovreste fare? Perché forse ci vogliono accollare anche l'antinquinamento per prendere le barche. È una rottura di balle, va, perché l'antinquinamento non ha più i requisiti, quello che c'è non ha più i requisiti. Boom. che non rientra nell'articolo 16, però rientra nell'articolo 16 delle compagnie portuali, è tutto un problema. Speriamo di no, speriamo che rimanga tutto così, perché se no io non proprio voglio andare dove con la scuola guida. Cavolo, è tutta una questione burocratica, eh. Vabbè, purtroppo. Vabbè, lì, ci sono i ormeggiatori, ci sono i piloti del porto, no? Non vanno bene qui. No, ma quelli non rientrano nell'articolo 16. Sono due cose, sono tre cose che lavorano negli stessi traghetti, ma tre cose con articoli diversi, articoli di legge diversi, capito? Se ti lato positivo, se non ti compro io, sei già qua dentro, no? Sì, mi prendo il camper e prendo la barca. C'era quell'intenzione, ma ne ho le scatole piene del mare, sinceramente. Veramente, mi piace più la montagna. Sto apprezzando molto di più la montagna. Il mare mi ha stufato. A me piace di più il mare, la montagna sì, fare una gita così mi piace, però il mare per me è tutto. A me da quando sono piccolo sempre sono separato a pescare, poi anche Eugenio mi, non ti crede, va a fare surf, fa tutte queste cose, quindi anche lui il mare già gli piace. Su Facebook hanno messo questi qua, questi due che sono andati con questo tempo qua, con le onde altissime a fare surf a Plattamona, li hanno ripresi. Non ci sono fatti nulla. No, a quanto pare no, se no avrebbero detto che erano morti, ma hanno detto che hanno avuto il coraggio con questo tempaccio, con le onde altissime a fare surf. Non ho capito che Eugenio si è assentato di colpo, buffa. No, la risposta manca a me. Vabbè, dai, ci vediamo. Intra, come si dice, intra queste onde. Bene, è così doppio rumo, porca miseria. Beh, vabbè, oh. Il tempo è quello che è importante. Vista ancora Milanese, non ci sta. Domani addirittura non messo anche di nuovo vento, ancora forse più grigio. Ma dice che calava la stasera, buh. Io ho sentito che il tempo si rimetteva, si sistemava da stasera, forse il vento rimane, boh, non lo so, ma la pioggia si sistema, è un casino, anche con questo vento c'è sempre da temere perché ti butta giù la roba, capito, è un momento, io infatti quando c'è vento così non cammino mai sotto i palazzi, mai, sempre a largo. Thank you. sai cos'è? Che queste bombe d'acqua fanno solo male, perché adesso ci sono carciofi, c'è la roba piantata, te brucia tutto la grandine che ha fatto ieri notte, non so se non voi ha grandinato ieri notte, ma qua ha fatto un tuono che ha vibrato tutta la casa, mi sono spaventato, guarda, mi sono svegliato e soprassato, un tuono allucinante, ha vibrato tutto, e poi questa grandine a gogo. Sì, ma infatti è Bologna, che c'è stata una, io mi cavo in un posto dove non c'è questo, cioè c'è un, praticamente un fiumetto, ma anche quei fiumiciattoli, ma piccoli, sai, proprio insignificanti, che quasi quasi con un salto di salti, no? Una specie di oddio, di qualcosa, un giorno arriva questa buffione, questa roba di acqua, oh, sono sceso in strada, c'erano le macchine che praticamente stavano entrando l'acqua dentro lo sportello, da quanto era alta, e infatti è successo perché proprio questo fiumiciattolo aveva straripato, che aveva piovuto, ma oh, non lo so con quanti ettolitri di acqua fatto, perché guarda veramente lì, con una goccia ti facevi la doccia praticamente, quindi figura una cosa incredibile. E capitano poi chiaramente quando su finamento anche lì non tira quasi mai, ma quando arrivano queste cose temporali, guarda, si traricano gli altri, tirano via, conservano malucci, distrugge anche i primi, così ragazzi, ma qui quindi le già rivisti, ma per adesso qui va ancora bene, non ho visto grandi, insomma, grandi curiosi, quello lì che sta facendo l'isola, chiaramente è normale, anche quasi normale. Il vento brutto l'ho visto a Trieste quando facevo militare con la Bora, io alla Maddalena invece quando ero lì al mare in ferma, il vento brutto l'ho visto lì. Comunque a Bosa stanno temendo per il temo che straripi, perché è sotto osservazione, perché hanno paura che straripi il temo. Il fiume di Bosa? Sì, il temo c'è, il temo. Come si chiama? Temo. T-M-O? Ho capito, buono, no, no. Si è allagato tutto a Bosa, è tutto allagato, c'è l'acqua alta, stanno praticamente monitorando tutta la notte, stamattina c'è la protezione civile che sta monitorando l'altezza del fiume. Passa in città proprio. Passa proprio dentro la città, io pensavo che lo sapessi che c'era il fiume lì, sì, il temo è nominato, io sono andato 3 o 4 volte a Bosa. Ma no, guarda, io purtroppo, dico purtroppo, non ho qui, io qui ci sono da 4 anni e mezzo, ho sempre vissuto in Emilia Romagna, da quando sono piccolino, quindi di cui non parlo, di quando avevo 10 anni, quasi venivo soltanto per vedere ogni anno, ma purtroppo non ho avuto l'occasione di conoscere la Sardegna, questo lo devo ammettere, cioè però devo girarla, sai, congolato, sono così due posti qua di mare, diciamo, tanta di quelli che ci sono nati, quando ero piccolino comunque qualcosa mi ricordo, girato, insomma, questa zona del mondo dove sono cresciuto, diciamo così, ogni anno ci tornavo, quindi insomma, quelle zone lì le conosco, anche il centro storico dove abitavano i parenti. Però io non, se tu mi chiedi questo fiume dove si trova il Sardegna, dico montagne eccetera, veramente sono molto indietro su questa cosa qua, magari se avrò la possibilità di farmi qualche giretto lo farò, ma per adesso non ce ne parlo la ruia sui nari Pighese, come dicono i sardi, no? I nari buoni, ma si hai capito? Qua mi sa che scarseggia, soprattutto adesso che tutte le bollette sono aumentate, siamo ancora molto peggio. Per carità, guarda, non me ne parlare, che boh, sono spese su spese proprio. Gianni, io. Mi dici come sto uscendo per cortesia? Bene, forte e chiaro. Grazie, ciao. Va bene, cosa? Beh, no, sto andando via, che devo fare cosa. Capito? Cosa volevi sapere? Per l'esame, come è andato? Bocciato, mi hanno bocciato. Non me ne danno mai a me patente, lo sai, no? Anche se ero il primo del corso. Cazzo. Questo mi dispiace perché hai studiato. Te l'ho detto, io lo sapevo. Vabbè, ho fatti dici. E me ne frego sì. Questa è la radio. È Superstar. Bella forte, con che microfono? MD+4, il solito. Va benissimo, non attari. Ero preoccupato perché ho chiamato una persona, non mi ha risposto, boh. Il tempo che sto uscendo. Perché c'è Mario di Porto Torres? Mario di Paese, ma lo sento basso basso. Capito, lo sento basso basso. Non so se lui sente a me, capito? Digli che gli faccio gli auguri per la promozione. Natalino ti fa gli auguri, Mario. Grazie. Quello che è successo perché è molto più preparato di lui e ti meritavi di essere promosso. Ha detto quante domande sbagliate e non sta rispondendo, se non deve essere andato. Addirittura, no. Ehi, perché tu doveva fare cosa e poi deve essere chiuso. Giovanotti. C'è stato qualcuno che voleva entrare, avanti. Ciao Gianni, ciao Mario, buonasera anche agli altri che non so chi ci sia. Carlo da Questa, ben sentiti. Allora, Gianni, abbassa un po' il microfono perché me ne stai buttando giù tutto. Invece Mario, Porto Torres e Santiago. Santiago 8, radio un po' bassa, radio 4, però lo sento abbastanza bene qua da me. Buonasera. Ciao, ciao, Carlo, ben sentito, dai. Carlo, Carlo, Carlo, quello... Beh, ciao Carlo, se sei tu quello che insomma ci sentivamo tempo fa, io ti sento molto più basso però questa volta, non so se... se hai qualcosa in meno oppure sei in una posizione un po' particolare. Comunque ben risentito, buonasera. Ti sento molto piano comunque, Carlo, faccio fatica a capire quello che dice. Dai, vai pure. Sì, ero bassino, stavo uscendo con 3 watt. Non so se con questo passaggio mi sentivi meglio, Mario. Sì, un pelino meglio ti sento, però ti sentivo molto meglio nelle puntate precedenti, diciamo. Eh sì, sì, perché ho ridotto, perché causa disturbi qua e quindi sto uscendo un po' più bassino, capito? Ho capito. No, comunque riesco a tirarti fuori, dai, se rimani così come rientra riesco a farcela. Ma io mi chiedo, ma signori, ma perché non si modula? Si sente molto meglio. Non so perché si modulate tutti i mezzi, abbiamo la possibilità di usare le premi che ci si sente meglio e si esce anche con potenza. Non parliamo di disturbi, in questo caso Carlo ovviamente con la potenza non può magari esagerare, però in linea di massima si dovrebbe modulare i premi. Facciamo stare il discorso. Non è meglio di no, ma è lo stesso. Fate finta che non lo sembra niente, perché così magari immagino che qualcuno non può dire le premi come partito, quindi magari è più comodo anche parlare in AM, però secondo me sarebbe anche molto più forte la popolazione su partita, si sentirebbe meglio. Vai da Perù. Capo, allora io mi aspetto 5 secondi che devo andare in bagno. Grande, vai Carlo. Niente, io in questo canale diciamo ho sempre sentito tutti gli amici di Sassari che modulano in AM, non so chi l'abbia scelto, per cui anche io mi sintonizzo in AM e vado così, anche se ogni tanto già uso l'FM, le bande laterali, capito? E perché l'AM è un po' riduttiva, diciamo, riduttiva, sì, con l'FM anche questa radio esce con qualche watt in più. Certo Carlo, ma poi io l'FM secondo me è una evoluzione che è più pulita, non parliamo delle bande laterali, le bande laterali secondo me sono ideali, poi è chiaro che magari qualcuno non le ha e quindi ci si piange nei FM. Ho capito, forse voleva entrare qualcuno, perché mentre parlavi ho sentito che sotto c'era qualcuno, vediamo avanti chi voleva entrare. Oh scusate, sono nuovo qua, signori, mi è mancata la luce. Sto uscendo adesso, Ma sto uscendo? Di che stai uscendo? Assolutamente. No, non sto uscendo. Sì, benissimo, tranquillo. C'è la radio che non puoi essere, capito? Quella va dentro. No, vabbè, perché è mancata la luce, sono sparito all'improvviso. Addirittura, porca miseria, mi dispiace. No, vai benissimo. Sento perfettamente. Uno, due, vai. Mario, adesso come sto uscendo? Più forte? Ecco, adesso ti sento bene. Adesso ho attaccato la banda, capito? Vedi. Adesso ci siamo, dai. Arrivi benissimo. Forse la modulazione si sente un pochino compressa, ma... Vai, mi sento molto bene, perlomeno riesco a superare il mio QRM che è molto alto, quindi vai tranquillo. Eugenio, sei tornato, Vani, che fai? Eugenio è mancata la luce un'altra volta. Capo a te. Io lo sentivo Eugenio, capito? Lo sentivo anche abbastanza bene, forte di segnale di radio. Sì, Eugenio quando è che ti fa sentire? Anche perché spero che abbia una buona sera tra l'altro. Però ci piacerebbe la risposta di tirare quel giro con noi, con me e con tutto il gruppo. Vabbè, sente male. Vediamoci dopo Roma caricando tutto. Cappa, tutto a posto, niente in ordine. C'è Antonio, buonasera. Allora. Ti hai sentito? No, non ti avevo più sentito ultimamente. Guarda, sono con Gianni, c'è Mario da Porto Torres, Eugenio sempre da Porto Torres, che però ha qualche problemino con la corrente. Avanti Gianni. Ehi, ciao Antonio, ben sentito, dai. Ogni tanto ti si sente. Là non è piazzato nulla ancora? No, ancora no, devo organizzare. Ah, ok, dai. Andava tu. ce l'hai solo lì adesso, così vabbè, moduli lo stesso. Ce l'ho qua così, ma non è che ci sia tanto tempo, eh. Beh, lo so, se stai lavorando non è che ci sia molto tempo, ma nei ritagli di tempo qualche cosa puoi fare. Io già me la faccio una bella stazioncina, non ti preoccupare. Già lo so, già lo so. E da l'attidotti e ci vuoi davvero me. Già esci bene, dai. Scappa, ti prendi Carlo. Ciao Antonio, guarda se riesci a sentire Mario da Porto Torres, immagino di sì. No, negativo. Lo senti là in via Milano? No, non riesco a sentirlo, ma era se l'antenna un po' bussotta. Ho capito. Ci sei ancora Mario? Sì, capo, sono qua, sono qua, io lo sento Antonio, ma ne dico lui da parte di altri, colgo l'occasione per tagliare perché io non mi sono reso conto nel orario in cui devo cominciare a prepararmi da mangiare, visto che non ho, diciamo così, come si dice qua, la 50 che mi fanno mangiare, non lo farò io da solo, quindi è un orario in cui questo qua mi ci metto nel, diciamo così, nel prepararmi da mangiare, quindi io vi saluto, rimango un attimo in ascolto, saluto te Carlo, saluto Lucio Romo, grazie delle quattro chiacchiere, saluto anche Antonio, eventualmente chi sta ascoltando, auguro una buona serata a tutti quanti, anche a te Eugenio se mi stai sentendo, ovviamente. Avanti pure, che Lucio Romo, la vita di cura. Scappa, dai, ciao Mario, dai, buona carica quando la fai, fai roba buona, mi raccomando. Ciao Mario, ce la risentiamo alle prossime, ciao, buonasera, Antonio ti saluta Mario, Scappa, salutalo, dai, saluta a tutti, io vi devo lasciare, dai, che ho entrato giusto 5 minuti a salutare, ciao a tutti. Ciao Antonio, ci sentiamo. Ciao. Ciao Antonio, alle prossime. Ciao Gianni. Via, dimmi Carlo. Stavo sentendo prima degli esami. Mi dispiace, perché si è applicato molto. Mi dispiace per lui, perché caspittina. Ne hanno crepato un po' forse. Stavo abbassando perché ero prima con Mario, perché dice mi sentiva un po' basso, allora avevo attaccato un attimo, adesso ho riportato tutto a 4 watt. No, qua arrivi divinamente, non ci sono problemi, magari a Porto Torres, se lui è in qualche posizione magari che non ti ascolta, però qua arrivi bene, in città va anche bene così. Ha voglia. E niente, quindi niente, io fossi come lui lo rifarei alla prossima sessione, capito? Magari più fortunato, è questione di fortuna, a volte puoi essere anche preparato, ma magari ti fanno una domanda un po' balorda e proprio su quella magari cadi e, capito, si fanno un quadro sbagliato, magari poi calcano con la mano, ti chiedono più particolari sempre su quell'argomento dove hai, diciamo, sbagliato e ti fanno sbagliare ulteriormente, capito? E così hanno fatto a me per la patente, praticamente sospensioni e ammortizzatori, e ho fatto una confusione tra ammortizzatori e sospensioni e mi hanno tartassato di domande, però bocciarmi non ce l'hanno fatta. Io invece no, già sono passato alla prima, diciamo, per la patente, poi ho fatto anche l'altra patente, quella aeroportuale, lo stesso, e lì è più che altro non ti chiedono niente su motore, ma è proprio sulla segnaletica che c'è, quella stradale, i limiti di velocità, le precedenze, capito? Ed era abbastanza un po' complicato perché ci sono diverse zone di limiti, dove che tipo di fari puoi usare di notte, in caso di nebbia, eccetera, insomma. E anche quello l'ho passato. Sì, anche io sono passata la prima, ma dico, quella domanda lì ha fatto di tutto, perché ho fatto una confusione lì, la verità, mi sono impappinato io, però poi mi ha chiesto in croce un po' di roba perché la stavo facendo orale, capito? Ho capito. Poi qua finalmente oggi è partito l'impianto di riscaldamento, ma c'ho un mal di schiena, porca miseria. L'hanno attaccato da voi? Non lo so, qua noi qua non si sente nulla, avevo un freddo allucinante, Attaccare la stufa elettrico mi dispiace un po' perché consumano e la corrente già, l'Enel mi sta arrivando bollette esorbitanti. Sì, no, da noi l'hanno attaccato, è partito un po' tardino, saranno state le 5 perché praticamente il manutentore oggi avrà iniziato da mattina a passare in tutti diciamo i condomini dove ha la manutenzione, capito? Quindi vai da uno, vai dall'altro.